Klosowski entra dentro Sade non per assolvere ma per guardare. Dietro lo scandalo, dietro il rumore, c'è una metafisica del potere. Non basta dire solo ateo, non basta dire solo male. C'è un uomo che vuole farsi legge contro la natura e il suo confine. Noi dobbiamo subordinare il godimento a un gesto unico, a un gesto unico. Più vuoi farti Dio, più resti chiuso, più cerchi potere, più resti nel rito. Pasolini l'aveva visto bene, la villa chiusa, il privilegio, il segreto. Il potere si nasconde, si protegge, trasforma il silenzio in un decreto. Il mondo cambia faccia, non sostanza, ripete il castello sotto altra luce. Non eccezione ma struttura, non solo lingua ma ferita antica. Allora il tempo ci rimanda addosso il nome di Epstein, nel cuore del privilegio, accanto Ghislaine e Maxwell, l'ombra della corte dove il silenzio si confonde col prestigio. E quell'immagine di Clinton vestito da donna, senza accusa ma come visione, richiama per analogia certe maschere di salò, certe scene di simbolo e deformazione. Non serve dire ogni nome nei dossier, tra carte e voci il vero pesa piano, ma resta questo: il potere crea cerchi e il silenzio spesso stringe la mano. Poi cade il re e cade anche Dio, almeno così l'uomo vuole credere. Ma quando il trono resta vuoto, subito qualcuno vuole prenderselo. E chi si proclama finalmente libero, forse rincorre un vecchio simulacro. Uccide il cielo con la bocca, ma poi lo cerca dentro il proprio specchio. All'inizio Dio è un'ombra ostile, quasi doppia, quasi nemica. Se il mondo fa male, pensa Sade, allora il cielo non è bontà infinita. Poi l'ombra cambia volto e diventa natura femminile, enorme, indifferente. E l'uomo le si oppone come forza che bilancia, un io che lotta col non io continuamente. E in fondo sotto il sistema la scena resta una stanza che non si spegne mai. Una madre sentita come legge tiranna, un amore che graffia e non dà mai. Così l'odio si traveste da noi dobbiamo subordinare.